Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Essere bambini ai tempi del coronavirus non è stato facile, non è facile, non lo sarà in questa fase 2 e ancora nei prossimi mesi. Intanto buongiorno, questa è la riflessione che vorrei condividere con voi oggi. Tante le incertezze, tante le sfide educative per i genitori, per la scuola, per tutti coloro che vivono a contatto con i bambini. E allora oggi ho invitato insieme a noi Alberto Pellai, che ci aiuterà a fare un po' il punto della situazione, ma anche che ci permetterà di affrontare un tema importante che ci sta particolarmente a cuore: che cosa hanno bisogno di sapere i bambini dentro un tempo di emergenza. Ciao Alberto e bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ci sono molte questioni tuttora aperte rispetto ai bambini, sia in ambito clinico che in ambito epidemiologico e preventivo. Quali sono gli aspetti che secondo te è bene tenere al centro del nostro focus di attenzione in quanto adulti e genitori? Ma penso che come adulti responsabili dobbiamo prima di tutto fare molta attenzione a quello che ci dicono essere prioritario in questo momento per il contenimento del contagio, e fondamentalmente siamo noi i responsabili di ciò che i nostri bambini fanno o non fanno, sanno o non sanno. E siccome anche loro sono protagonisti attivi di questo tempo così complesso, anche loro sono pesantemente impattati e coinvolti in questa fase 2 che fornisce qualche libertà in più, ma contemporaneamente ci mette ancora tantissimi limiti, perché dobbiamo vedere come si evolve la situazione. Ecco che come genitori noi dobbiamo essere molto attenti ai loro bisogni di salute, ai loro bisogni di benessere, ma allo stesso tempo dobbiamo renderli attivi e protagonisti dentro i bisogni di prevenzione e di contenimento del contagio. Alberto, noi abbiamo parlato del virus, del nemico invisibile ai nostri bambini. Adesso ai nostri bambini dobbiamo raccontare la fase 2, la ripresa, e anche in questo caso dobbiamo rimetterci in gioco. E allora quali sono le attenzioni ma anche le precauzioni che dobbiamo adottare? Cosa possiamo dire ai nostri bambini? Ma lo abbiamo capito chiaramente anche sulle nostre vite, nelle nostre vite. Questa non è una fase di liberi tutti, questa è una fase in cui c'è ancora molta attenzione da fare, questa è una fase in cui però si può finalmente anche uscire, andare nel fuori con molte attenzioni e molte precauzioni. Credo che i due messaggi fondamentali che debbano arrivare ai bambini sono: da una parte che loro effettivamente sono piccoli supereroi di questa fase di contenimento del contagio, sono quelli che non si ammalano, ma allo stesso tempo che possono giocare un ruolo attivo affinché persone potenzialmente a rischio di ammalarsi riescano a rimanere esenti dal contagio. Fondamentalmente su di loro c'è un'aspettativa molto forte. Non possiamo dare un messaggio di responsabilità ai bambini, però possiamo farli sentire proprio come protagonisti di una grande azione collettiva, dove il loro sacrificio e anche la loro bontà può fare davvero la differenza. Allo stesso tempo ci sono norme di prevenzione e di sicurezza che valgono per tutti e quindi valgono anche per loro, e questo sta a noi adulti riuscire a trasmetterlo in modo chiaro e competente ai nostri figli. Alberto, ma immagino che i nostri bambini sentiranno la mancanza dei nonni, degli amichetti, delle feste, dei giochi all'oratorio, avranno qualche difficoltà a adattarsi a questa nuova normalità in cui le cose che della vita precedente ante Covid sicuramente non ci saranno più, saranno molto diverse. Come aiutare i nostri bambini a fare questa sorta di adattamento? Ma provando a parlarne con loro, cioè effettivamente poi i bambini possono essere dei grandi collaboratori proprio nel problem solving. Abbiamo un problema, come lo possiamo gestire e risolvere? Penso alle visite dei nonni, possono avvenire, ma devono essere però effettuate con la regola del distanziamento interpersonale, indossando le mascherine. Effettivamente i nonni non possono essere ancora abbracciati, baciati, accarezzati. Allora cosa vuol dire non fare una carezza sul volto e fare magari una carezza sul cuore? Un bambino che è bravo a cantare può proprio preparare un piccolo spettacolo per i suoi nonni, un bambino che può scrivere una poesia e mentre prima la faceva in videochiamata può farla nella casa dei nonni gestendo le distanze di sicurezza. Può proprio essere che ci inventiamo che coi nonni invece che incontrarci al chiuso ci incontriamo all'aperto. All'aperto. E quindi trasformiamo anche, penso, l'incontro con i nostri amici, no? Ancora non è possibile effettuarlo, ma noi eventualmente possiamo andare in un parco, sederci su due panchine ben distanziate e parlarci in quel modo. Lì è una sorta di gioco del telefono senza fili dove non abbiamo i bicchieri legati dal filo che fanno da telefono. Penso che sia proprio una fase faticosa, complessa per i bambini, ancora di sacrificio, ma in qualche modo dove loro riescono a capire quello che sta succedendo, quello che stiamo facendo, e quindi trasformare il distanziamento in una sorta di gioco di telefono senza fili, ecco che potrebbe essere una soluzione a misura di bambino. Alberto, I bambini giocano con gli altri bambini e l'essere amico corrisponde all'essere vicino, al contatto fisico. Il distanziamento fisico anche per i nostri bambini è importante, garantisce la sicurezza, ma non deve diventare un distanziamento sociale, non deve in qualche modo interferire sulla costruzione di buone relazioni. È difficile per noi adulti, immagino lo sia anche per i bambini. Che cosa suggerisci? Quali messaggi dare? Parliamo di bambini piccoli, ma che hanno nell'amico, nel gruppo di amici un nutrimento importante. Ma io penso, lo abbiamo anche già detto nella tua trasmissione, che se le cose funzioneranno un po' abbastanza bene nei prossimi giorni o settimane, una possibilità sia quella del gemellaggio tra famiglie. Questo significherà avere un amico di pari età con cui poter giocare insieme non più distanziati. Ecco, questo farà una differenza incredibile e penso che andremo un po' in quella direzione, cioè anche quello che stiamo leggendo sui giornali in termini di previsione di quello che succederà nell'estate è permettere a piccoli e ristretti gruppi di bambini, sempre quelli, di poter interagire fra di loro ricreando un gruppo più piccolo del grande gruppo allargato, come era quello della classe, oppure del gruppo dell'associazione sportiva, certo, oppure del gruppo del centro estivo. Delle micro comunità. Esatto, restituendo ai bambini però, esatto, restituendo ai bambini la possibilità, certo, di avere relazioni dirette con i loro coetanei. Ecco, perché questo è importante, vero Alberto? È di importanza fondamentale, proprio il benessere dei bambini si nutre non solo del cibo e della protezione che mettiamo a loro disposizione, cosa che abbiamo fatto perfettamente nella fase 1, ma ha proprio bisogno di appoggiarsi sul gioco, sul corpo, sull'esplorazione della natura e sul contatto e la relazione con i propri pari. Senti Alberto, ci sono delle regole che tu puoi suggerire per costruire una buona comunicazione in questi giorni così delicati e complicati? Ma direi che le regole sono che quello che diciamo ai bambini deve anche corrispondere a quello che i bambini vedono fare a noi adulti. Quindi la prima regola è essere dei buoni esempi, senza avere l'ansia di essere perfetti. Perfetti. E quindi esemplari, magari un po' imperfetti, ma fornitori di buoni modelli comportamentali, visto che ne dovremo adottare di nuovi e di differenti dal solito. Il secondo aspetto credo che sia proprio quello di riuscire, se possiamo, a trasformare un po' tutto in una storia, in una filastrocca, in un gioco. Penso all'uso delle mascherine, che effettivamente per molti genitori è diventato un aspetto ostico, sono molto contrari. Noi abbiamo un obbligo di legge sopra i 6 anni, sappiamo che sono vietate sotto i 2 anni per il rischio di soffocamento, tra i 2 e i 6 anni non sono obbligatorie, ecco, ma io credo che aiutare i nostri bambini ad apprenderne l'utilizzo e a saperlo gestire permetterà poi a loro di avere più possibilità d'ingresso in luoghi dove magari ci sono altri bambini e renderà anche più sicuro il contatto con i loro nonni o con le persone vulnerabili. Alberto, in questi giorni il canale di Akid ha lanciato un nuovo format rivolto proprio ai bambini e ai preadolescenti, in cui sei coinvolto anche tu, Alberto, insieme a Barbara Tamborini. Si intitola Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni. Qual è la caratteristica di questo format e di questa trasmissione? Che va proprio, si rivolge proprio direttamente a un target ben specifico. Ma parte proprio dall'analisi di questo momento, ci sono state cose molto molto complesse da raccontare ai nostri figli e da far comprendere loro, perché avevano poi un impatto sui loro comportamenti e sul cambiamento del loro stile di vita, e queste cose devono essere raccontate ai bambini dicendo loro tutta la verità, con una modalità però che è a loro misura, cioè rispettando il loro funzionamento mentale, il concetto di fase specificità. E quindi in questo format abbiamo preso 25 temi complessi, con cui spesso noi adulti facciamo un po' a cazzotti, preferiremmo quasi non dirli che dirli, mm-hmm. E che invece è importante che i bambini conoscano, li abbiamo fatti raccontare da 2 ragazzi che sono molto amati proprio dai più piccoli, che sono l'attore Matteo Valentini e Sofia Delle Rive, che è molto popolare sul web. Abbiamo costruito dei testi molto adeguati e appropriati dal punto di vista scientifico, però ricchi anche di esempi, di immagini, di metafore a misura di bambino. E tra l'altro la cosa interessante è che la serie è stata proprio scritta e poi girata dentro alle case dei 2 protagonisti, cioè loro non sono usciti di casa, e quindi è una proprio nelle loro stanze. Nelle loro stanze, nelle prime 10 puntate, c'è un po' la riproduzione di quello che è successo a tutti i bambini nella loro vita nella fase 1, cioè esplorare il mondo che c'è fuori, stando però in un dentro che non poteva essere oltrepassato. Alberto, allora, un appuntamento da non perdere. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata. Anche a voi, grazie mille. Bene, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi la nostra iniziativa. Raccontateci la vostra gratitudine. Di che cosa, a chi siete grati? La gratitudine è un sentimento che ci aiuta a cominciare e a ricominciare una nuova normalità, perché ci mette nella predisposizione d'animo ideale. La conferma arriva anche dalle neuroscienze. Vi abbiamo invitato a mandarci le vostre storie, anche piccole, di gratitudine, inviandoci una mail a obiettivosalute@radio24.it, oppure mandando un messaggio vocale al 335 830 4306. Raccogliamo tutte queste storie, che mi piace paragonare dei piccoli mattoncini, come quelli Lego con cui costruivamo quando eravamo piccoli, dei castelli fantastici. Li daremo tutti ad Andrea Vitali, uno scrittore tra i più amati e apprezzati, che prenderà spunto per scrivere altre storie, perché la gratitudine crea gratitudine. E ad aderire subito al nostro invito è un amico della nostra trasmissione, che è stato molto vicino a noi in queste settimane di lockdown, Luigi Sutera, con le sue immagini e i suoi versi. Ciao, ogni giorno portato altrove sulle pagine di Obiettivo Salute, in linea con noi. Ciao Luigi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Luigi, allora, tu ci hai mandato un bellissimo messaggio di gratitudine e noi l'abbiamo raccolto insieme a quello dei nostri ascoltatori. Vorrei utilizzarlo per suggerire ancora a chi non l'ha fatto di farlo. Un piccolo spunto, Luigi. Ma lo spunto è, consentimi, io faccio anche fotografie immaginando di essere un fotografo, visto che in realtà io sono un consulente d'immagine, perdonatemi il gioco di parole. Il mio primo pensiero, parlando di gratitudine, va proprio alla mia immaginazione. Questa cosina mi permette di vivere una vita più colorata, mi permette di osservarla da altre angolazioni. Ovviamente però l'immaginazione è parte della gratitudine, perché la prima grande gratitudine che tutti dovremmo avere è nei confronti della vita. Noi ci siamo, quindi questa è la grande gratitudine. Grazie, prendete spunto, scriveteci obiettivosalute@radio24.it, mandateci il vostro vocale al 335-830-4306. Trovate tutte le indicazioni sulla pagina di Obiettivo Salute. Miriam Lucchetti in assistenza, Laura Vanossi in redazione e alla parte tecnica in regia Carmelo Lauricella. Grazie anche a loro, a domani.